Happy Tour. Mystery Tour. La trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata ai misteri interplanetari, alla cultura trash e alla musica inaudita su tutti i fronti. In onda ogni domenica alle ore 20. Non mancate all'appuntamento con... Scusate ma l'immondizia mi dà alla testa. Mystery Tour Forever. Ogni domenica alle 20 su Radio Onda d'Urto. This is Angry Bob, the man with the industrial dick, coming at you loud and clear on WAR Radio. Rise and shine, folks. It's a beautiful day. Just look at that sky. It's a work of art. Ha! Nature never knew colors like that. And a friendly reminder, when you look at it, be sure to wear your shades. The radiation counts way up and the heat wave ain't expected to let up either. Weather control tell us it'll probably hit 110 downtown before nightfall. As for the good news, there is no fucking good news. So let's rock with one of our golden oldies. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. Dunque. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour in onda sin da lontano 1998 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dove potete raggiungerci telefonicamente allo 030 456 70, altresì inviarci un vetusto fax allo 030 377 1921 oppure visitare il sito mtour.co.nr come numero, oppure myspace.com/mtour oppure professore. Ando sta? Ah già, buonasera. Buonasera. Il nostro gruppo in Facebook, che è un gruppo vivacissimo, dove potete postare, potete commentare, potete prendere atto e visione delle ultime news, stunning news, sulla musica 360, musica buona ovviamente, buona musica. Sì, non notizie ci sporchiamo. Notizie trash. Quelle ci sporchiamo. Notizie trash, quelle sì, e misteri vari, quindi il gruppo di Facebook Mystery Tour Radio Show. Sì. Che adesso ha raggiunto quanti? 7-5, insomma, lo faremo crescere ancora. Arriveremo ai 1000. Ai 1000, supereremo i 1000. E dunque potete anche ascoltare naturalmente tante belle interviste con personaggi di calibro internazionale come Dick Wagner, come Martin Barr dei Jethro Tull, Matt Malley dei Counting Crows, insomma il nostro amico Andy Fletcher dei Depeche Mode. E tra l'altro sono reduce adesso da una bellissima intervista con Brian Yuzna, un grandissimo regista e produttore cinematografico di Los Angeles. Ricordiamo titoli come la serie di Reanimator oppure Society, The Dentist, insomma un personaggio incredibile. Potrete ascoltare anche la sua voce, un personaggio stupendamente sublime. Allora, noi adesso abbiamo iniziato anche tra l'altro un'ottima collaborazione con la mitica Frontiers Records di Napoli, che salutiamo perché sono veramente incredibili, cioè riescono, sono nati, mi ricordo, ormai 10-15 anni fa appunto con questo amore incredibile per il rock melodico, per certo rock progressivo. Oggi lavorano con Uriah Heep, con Yes, insomma, e con tante vecchie glorie e nuove glorie del rock melodico, rock FM, AOR, rock progressivo, chiamateli come volete questi generi, comunque è musica incredibile. Quindi abbiamo iniziato questo bel rapporto promozionale, ci hanno fatto avere una serie di dischi davvero interessanti. Iniziamo con una band svedese, loro si chiamano Crazy Licks e questa è Heat Seeker. Yeah. grazie alla Frontiers Records e a questi grandi gruppi sembra di essere tornati proprio negli anni 80. Ma ottimo produzione, tra l'altro, una qualità del suono veramente stupendamente e molto molto anni 80, è vero. Perfetto. È vero, c'è influenze decisamente. Ma tra l'altro mi sono sempre chiesto come mai da una terra così fredda come la Scandinavia hanno sempre partorito questi gruppi, questo caldo rock and roll. Ricordiamo tutti i vari Helicopters, Hanoi Rocks. Sì, infatti ecco, questi Crazy Licks appunto sono assolutamente, fanno parte diciamo di quella scena. Appunto, che è comunque molto molto molto calda. Sì, sì, che abbiamo riproposto anche non troppo mesi fa. Vedremo anche di promuovere, allora, questi nuovi gruppi. Ecco, vi ricordiamo che questi brani che vi facciamo ascoltare stasera sono brani tratti da dischi che usciranno nella seconda metà di aprile, quindi una anteprima appunto esclusiva di in questo caso per Radio Onda d'Urto di Mystery Tour. Quindi tenete d'occhio questi gruppi, la Frontiers Records, in questo caso Crazy Licks, Hit Seeker è il disco. Il 20 aprile uscirà il disco Riot Avenue per Frontiers Records. Il brano che ci andiamo a ascoltare adesso è di un gruppo storico degli anni d'oro di questo genere, sono i Tichetto con la Y, che appunto si sono riformati per fare un disco con Frontiers Records. Uscirà anch'esso il 20 aprile, questo disco si chiama Dig In Deep e la canzone che vi proponiamo è Love to Love. Do you blame it on your nature? Do you listen when you lie? davvero materiale di ottima qualità, quello che ci invia la Frontiers Record di Napoli, che salutiamo con affetto e appunto speriamo di poter portare avanti questo bel rapporto promozionale, perché oggi non è facile trovare un'etichetta che dia così ampio spazio a delle produzioni di questo tipo, quindi anche una scelta assolutamente coraggiosa e controcorrente. Ancora un brano dopo la nostra immersione nelle fognature, nel trash più profondo, con Mondo Trash, notizie squallide da un mondo squallido, professore. E beh, ormai è un tormentone, sembra quasi un trend dei personaggi strampalati che si travestono da Batman o per compiere delle rapine o per compiere comunque delle marachelle. E stavolta è toccato a un buon tempone di Rockville nel Maryland finire nelle maglie della pubblica sicurezza, perché girava senza targa regolare, senza, sulla sua Batmobile, ovviamente. Ma com'è possibile? Non si capisce che targa regolare può avere una Batmobile. Era targata Gotham City. Gotham City. Ma cosa vuol dire targa regolare? In America, se paghi $35-40 puoi avere quella customizzata, cioè puoi scriverci anche non so, viva fuck, la, viva, cioè, non lo so. La bottiglia della settimana scorsa. Esatto, non lo so. Cosa vuol dire targa regolare? La forma di pipistrello era questa. Cioè, forse come... Ma incredibile. No, beh, poi vabbè, si è conclusa senza particolari provvedimenti nei confronti del buon tempone, perché si è scoperto che è un generoso filantropo che andava a visitare i pampini gravemente malati. Un po' come il vero Batman. Si chiamava Bruce Wayne. Che comunque sì, è un ricco annoiato che comunque fa del bene, magari sì, modo più diretto. Beh, questa è una sorta di Patch Adams senza molta immaginazione. Esatto. Mamma mia. Allora, dagli Stati Uniti alla Russia, un ritorno alla guerra fredda. No, è una notizia veramente fondamentale, è scomparso il gatto di Medved. Ah, oh, porca ovviamente miseria. Il problema più grave che hanno in Russia in questo momento. Sì, esatto. Sì, il presidente, tra virgolette. Sappiamo chi è il vero capo. Quel pezzo di... insomma. Vabbè, il capo del KGB, va. Il capo del... sì, però il suo giovane pseudo-liberale Medved ha perso il suo gatto, insomma. Vedi, è stato... tempi e posti duri per i troppo... Cioè, troppo... È riuscito a ritrovarlo grazie a Twitter. Quindi i social network spopolano anche oltre la cortina di ferro. Ha scritto miau miau, il gatto l'ha riconosciuto. Miau miau. Si è sentito in colpa ed è ritornato a casa. È tornato a cuccia. Vabbè, ma perché era scappato? Di... Come cazzo ha fatto a ritrovarlo? Cioè, non lo spiega. Grazie a Twitter. Grazie a Twitter. Ma cioè, grazie a Twitter della serie. Si vede che... Nel senso che uno ha postato una foto del gatto. Del gatto. No, era una foto truccata. Era una foto truccata di Vladimir Putin con un cappello di pelliccia e orecchie da gatto. E la didascalia recitava: Dorofei, non l'ho visto. Dorofei era il nome del gatto. Del gatto. Quindi insomma hanno molto buon tempo anche in Russia. A proposito di Twitter, 5T dal social network stampati su carta igienica. Oh. Beh, quello che sì, è giusto la loro collocazione. Quattro sviluppatori americani hanno realizzato un'applicazione, si chiama, attenzione, Shitter. Shitter. Okay. Allora, praticamente consente Shitter consente di selezionare una serie di tweet, di post, chiamateli come volete, per poi stamparli direttamente su rotoli di carta igienica. Un pacco di quattro rotoli, $35. Ah, però. Un bel... Gusta la carta. L'idea... Però vuoi mettere la soddisfazione di pulirsi con tutti i messaggi di te? Veramente notevole. Noi di Facebook ne faremo incetta, immagino. L'idea, tra l'altro, era venuta già a qualcuno sotto forma di spot televisivo negli Stati Uniti. Dante Alighieri che scrive la Divina Commedia su un rotolo di carta igienica che non finisce mai. Come la nota pubblicità, no? Ma è una cosa... però in questo, mi sembra un po' offensivo nei confronti del sommo poeta, no? Un po' se l'ha anche meritato, dai. Professore, vuole la carta igienica. Noi non possiamo fare altro. No, io chiaramente ho postato più volte nei miei profili, cioè la carta igienica con stampato il dollaro, piuttosto che la faccia di Berlusconi. Concio, piuttosto che insomma, cioè oppure a forma di tipo carta igienica. Ma cioè, in questo caso non possiamo, c'è tutto un tormentone, fare altro che sciacquarci. Sì, però spendere tutti questi soldi per una carta igienica, in effetti. Vabbè, dai, un po' esagerato. Torniamo in un ambito musicale molto più consono a noi. Allora, altra produzione uscirà anche questo il 20 aprile, Frontiers Records. I Trickster erano un gruppo del New Jersey che ebbero un discreto successo verso la fine degli anni 80, suonando anche con gruppi come gli Skid Row. Insomma, adesso si sono rimessi insieme, hanno fatto un disco col produttore Chuck Alzakian dei Tesla, gruppo incredibile. I Trickster in questo caso propongono un disco, si chiama New Audio Machine, appunto, che uscirà poi nei negozi il 24 aprile. Noi vi proponiamo una canzone veramente ottantiana, si chiama Physical Attraction, Trickster. Well, you look straight at me, you're thinking I'm so special. Well, I got news for you, there ain't nobody better. Yeah, you got moves, you try, you just might succeed. Like a lady. Beh, siamo colpiti da questo lavoro che sta facendo la Frontiers Records di Napoli. Ma, citiamo qualche gruppo che ha prodotto o produrrà. Caspita, a breve. Questi hanno veramente pubblicato lavori di Toto, Asia, Styx, Journey, Winger, Whitesnake, Dokken, Extreme, Tesla. Dokken, cioè, tutti quelli tutta la scena che fu negli anni '80. Ma sì, ma perché è incredibile come il mercato musicale si sia cambiato. Cioè, una volta che le grosse etichette del passato e del presente, perché una volta questi gruppi lavoravano con grosse etichette, Atlantica, certo, Universal, certo, la Sony, una volta che si sono ritirate questi generi, adesso un'etichetta nata a Napoli nel 96 può permettersi di avere l'esclusiva mondiale su dei gruppi incredibili. Pazzesco, sia del passato che nuovi gruppi che si formano ispirandosi a quelli del passato e che trovano un riferimento un'etichetta. Quindi dovremmo fare un'intervista a Serafino Perugino, a chi ha fondato questa incredibile etichetta. È difficile tornare a parlare di trash adesso. Vabbè, dai, dopo che faremo uno sforzo. Sarà sì, un'escursione notevole. Ok, professore, ci racconta. No, e siamo al dog napping ormai, siamo al pet napping, cioè siamo al rapimento di cuccioli. Stile a carica di 101. Minchia, che ma non è possibile. A Genova c'è un fatto allucinante. Dunque, l'amica le presta il cagnolino, lei lo rapisce. No. Com'è possibile? Che è crudele demone. Va denunciata, meno male. Denunziata. Si è invaghita di un cagnolino che la sua amica le aveva affidato. Sì. Dovendo andare in vacanza. E gliel'ha affidato così, a cuor leggero. A cuor leggero. Perché questa qui, l'affidataria, si è innamorata del pet. E quindi poi alla sua amica ha detto che zoofilia, che era scomparso, che non si trovava più. Mamma mia. Dopodiché, ha mentito. No, non solo, è andata addirittura da un veterinario per fargli rimuovere il microchip che poteva far rintracciare il cagnolino e ricondurlo alla padrona, capito? È andata persino dal veterinario a rimuovere il microchip. Suggerirlo a Medvedev per ritrovare il suo gatto. E vabbè. Ma una di 44, una genovese. Quindi anche una ragazzina Belandi. Che si è... No, Belandi. No, Belandi. Belin. Mamma mia. Allora, Palermo, c'è un po' di problema con i sindaci a Palermo, sappiamo un beh, po' dai tempi, quello di Vito, prima Salvo Lima. Esatto, dopo che c'è stato Salvo Lima e Vito Ciancimino, giustamente, perché no, un noto attore italiano, un attore un po' particolare, di Rocco di genere. Rocco Siffredi! Attore di genere. For Major. Ma spopolava su Facebook la proposta di candidatura a sindaco. Votatemi se no vinco. Facebook, sono centinaia i simpatizzanti dell'attore che hanno cliccato mi piace sulla pagina di Rocco Siffredi. A professore, lei è il massimo frequentatore di Facebook. Il presidente del Rocco Siffredi fan club. Ah, è lei? Beccato il professore. Vabbè. E con tanto di una piccola lettera di Rocco: cari cittadini, ho deciso di candidarmi perché credo che siete abbastanza stanchi di questa politica falsa e corrotta. È meglio futtire. È giunta l'ora di buttarli fuori, scegliete voi e io metterò a disposizione i miei mezzi. Che è un po' ambiguo come messaggio. Sì, esatto. Ma poi è stato fuori che era tutta una bufala, smentito in un'intervista in un noto programma di Radio 24. Quindi mi dispiace per i palermitani, ma forse di più per le palermitane. Rocco sarà il prossimo candidato sindaco. E vabbè. Un professionista della lavorazione delle ceramiche artistiche. A Foshan, nel sud della Cina, ha usato per creare un cuore dedicato agli innamorati centinaia di tazze di WC, orinatoi, lavabo. Meno male. Vespasiani, esatto. Ne sentivamo il bisogno. Un cuore rosso disegnato appunto con centinaia di CS. E quindi provate a cercare su internet, provate a scrivere Cesso. Dichiarazioni d'amore parete di WC. Non possiamo far altro che utilizzare E due stasera, esatto, due catene. Il rimedio drastico. Allora, angolo delle colonne sonore, rimaniamo in ambito rock, rock melodico, rock, molto rock. Fastway, colonna sonora di Trick or Treat, con anche Ozzy Osbourne, Gene Simmons come camei, e chiaramente di Fast Eddie Clark dei Motorhead. E noi ci ascoltiamo la colonna sonora di, in italiano, Morte a 33 giri. Ecco qua i Fastway. Chiamiamo all'ordine il professore che fuoriesce dagli studi radiofonici. Ringraziamo ancora la Frontiers Records di Napoli per averci fornito questo ottimo materiale musicale. È stata una vera e propria rivelazione. Insomma, già lo sapevamo, già avevamo trasmesso materiale Frontiers quando lavoravamo a Radio Brescia Popolare, insomma, seconda metà degli anni, anni 90, e siamo ancora contenti di poter lavorare con loro. Frontiers Records, segnatevela. Anche perché, a quanto pare, in Italia non ci sono molti che siano adeguatamente attenti a questi generi musicali che, insomma, negli anni... scorsi, soprattutto insomma negli anni 80, 70, 80 così, andavano giustamente, erano molto apprezzati, molto diffusi. È vero. È da un po' di tempo che soprattutto in Italia c'è come una cappa di piombo. Bisogna dire non solo in Italia, cioè nel senso rispetto al passato, in Italia in maniera assolutamente mafiosa, perché insomma alla fine c'è un duopolio a quanto pare tendenziale di due grosse major che insomma impongono sempre gli stessi. Il discorso, sì, è che comunque personaggi decotti, cioè, piuttosto che insomma. Ma è musica melodica, cioè non è, cioè intendo dire. È apposta, sembrava non è ostica. Anche non di è, facile ascolto, volendo. Facile ascolto, certo, esatto, certo. Ma infatti sembrava assurdo negli anni all'epoca, che furono dire non avranno successo un giorno i Dokken, i The Flappard, gli Skid Row, i Motley Crue, sì, cioè, sì. Sembrava assurdo. Poi è successo, purtroppo, sicuramente, come fa notare il buon Mickey Rourke in The Wrestler all'inizio degli anni 90, per colpa di come dice lui, di Kurt Cobain, diciamo del grunge, che sicuramente anche i Trickster che abbiamo ascoltato prima nella biografia si può leggere, si sono sciolti proprio nel 92 perché la musica era comunque cambiata. Certo, anche gli Skid Row a un certo punto tirarono verso il terzo album, Subhuman Race, suono che vagamente poteva ricordare anche qualcosa di grande, sì, cioè, molto vagamente. E non solo loro, anche tanti gruppi come i D.A.D., insomma, certo. Ecco, i Cinderella stessi, tanti gruppi, ecco. Oggi si può ancora apprezzare questa musica. Ma si può anche cercare di rivalutare con tutti gli strumenti che abbiamo, anche se non sono purtroppo paragonabili a quelli che ha l'established shipment, dico io, no? L'established shipment, cioè, sì, questo sistema ormai c'è, cioè, veramente, ma io dico soprattutto in Italia, guarda, cioè io sono fissato, cioè dico qua in Italia veramente c'è ormai la mafia che domina a tutti i livelli, quindi, e purtroppo anche nel settore della comunicazione, chiaramente della cultura, chiaramente anche quindi della musica. Solo che su questi aspetti poi molto spesso anche quelli che sono alternativi, che sono critici nei confronti del sistema, io credo non si rendano conto bene fino in fondo su queste tematiche, diciamo, culturali, ma anche che riguardano la ricerca storica, ricerca archeologica, come molte volte abbiamo detto qui nell'angolo misteri, ma anche per quanto riguarda la musica. Sembra assurdo, ma tantissimi grandi artisti, tantissimi grandi pezzi in Italia non arrivano, non sono mai arrivati, bisogna proprio andarseli a cercare, mentre i media di regime, dell'establishment, ci riversano quotidianamente addosso proprio una valanga di porcheria, di vomito, di squallore allucinante, senza fine, senza fondo, ecco. Ecco, ricordiamo appunto che ci sono fortunatamente delle realtà con cui noi siamo in contatto, fra cui anche il sito francese Rock Interviews di Anne-Marie e Bernard, che salutiamo perché appunto da domani sarà disponibile online una bella lunga articolata intervista, video intervista a Dick Wagner sul sito appunto Rock Interviews su Facebook. Noi la pubblicheremo sul Facebook di Mystery Tour. E quindi, insomma, cioè, dare voce a personaggi storici, uno come Dick Wagner che ha lavorato con Lou Reed, Alice Cooper, i Kiss, gli Aerosmith e tanti altri, meno male che ci sono queste realtà, appunto, fra cui anche la Frontiers Records, e in piccolo ci possiamo fregiare anche noi. Beh, noi nel nostro piccolo cerchiamo di riproporre sempre, o riproporre o proporre le novità. Ormai da 17 anni a questa parte tentiamo sempre di proporre questa musica che appunto, cioè, non è che, oltre a dare spazio anche a musica più difficile sicuramente, e ci sono sicuramente etichette e uffici stampa validi, ricordiamo anche i nostri partner, la Lizard Records, la Simpress 44, tra l'altro sempre, o Simpress 44 dell'amico Donato Zoppo, tra l'altro di Salerno, quindi la campagna, insomma, sta dimostrando pazzesco, veramente. No, veramente anche questa è una notizia per me bellissima, sì, è molto vero, interessante, sì, sì. E ci fa uscire dai soliti luoghi comuni, certo. Dell'immondizia, sì, della camorra, vera, purtroppo. Esatto, esatto. Della camorra, sì, eccetera, sì, eccetera. Beh, ormai poi l'Andrangheta ce l'abbiamo proprio in regione, nella regione Lombardia, nella sede della regione. Sapere che comunque appunto abbiamo delle realtà in Campania che pazzesco, no, veramente spingono bello, veramente molto generi musicali bellissimo, stupendo oggi ingiustamente davvero, non più sì, calcolati, sì, davvero. È pazzesco, sì. E appunto siamo molto molto molto ma molto contenti. Noi continueremo a farvi appunto ascoltare tutto questo. Non è tutto come quello che vogliono farvi credere, sembra un luogo comune, una banalità, ma ci sono ancora vecchie e nuove glorie che propongono una musica assolutamente pura, si può dire. Sì, cioè senza... sì, non condizionata dalle mode, dalle esigenze commerciali di questa che purtroppo è una macchina infernale, che è al titolo ossimorico di industria culturale, perché l'industria mira al profitto economico e quindi ovviamente l'arte scompare, la cultura viene strumentalizzata e pertanto non è più autonoma e quindi non è più cultura, insomma, no? Non è più ricerca disinteressata di armonie, melodie, ritmi, cioè di qualcosa di bello, no? Che in effetti è la ricerca artistica, no? Ti pare? Assolutamente, assolutamente. Ecco, invece ci sono moltissimi artisti che sono più liberi, che hanno un'autonomia economica, che riescono a farsi apprezzare, che hanno un ambiente circostante più favorevole, e tantissime produzioni che noi cerchiamo sempre di recuperare in giro per il mondo, insomma, no? L'abbiamo scoperto in Jugoslavia, addirittura l'abbiamo scoperto nei posti più impensabili, e certamente non è tutta quella immondizia, ripetiamo, che ci viene riversata addosso da vari MTV, DJ Virgin e tutta questa immondizia, insomma, no? E men che meno da Rai 7 e tutta questa porcheria, insomma, no? E neanche dalla 7, per dire, insomma, da niente, non so, fanno proprio veramente. Io mi ricordo, ero andato in Cecoslovacchia per una gita scolastica, stavo facendo zapping in quella TV, non capivo assolutamente nulla, però di, non so, una ventina di canali, tre erano musicali, rock, metal, tutto 24 ore su 24. Certo. A Praga, cazzo, cioè, sì, una sì, roba, no, beh, no, incredibile, cioè. Qua in Italia di 2000, cazzo, quante sono di digitale, cioè, non c'è niente, non si può guardare la televisione, fa veramente schifo. Sì, no, una cosa vergognosa. Noi adesso ci addentriamo nell'angolo di DJ Flower, tornando un po' alla prima metà della scorsa puntata, quando appunto abbiamo riproposto un po' di buon vecchio glam. Ecco, glam. Il glam rock, quello originale, quello inglese dei primi anni 70, quello con i lustrini, con glitter rock, quello celebrato nel bellissimo film che vi consigliamo, appunto, Velvet Goldmine, ormai del 1998. Diciamo che nasce un po' tutto lì. Sì, certo. Quello che appunto poi spesso andiamo a... Beh, diciamo sì, per noi che siamo grandi ascoltatori, consumatori di varie punk, new wave, rock, street rock metal, ma anche sì. Pop, primi anni 80, insomma, diciamo, in qualche modo nasce tutto lì. Quindi stasera appunto continuiamo con questa rapida carrellata. Iniziamo con appunto un gruppo dopo... la settimana scorsa gli Slade, abbiamo proposto i J Flower e io ho proposto i Quiet Riot con la loro versione di Come on Feel the Noise, Mama We're All Crazy Now, hanno riportato in auge negli anni 80 questo gruppo del decennio precedente. Oltre agli Slade, gli altri, diciamo, erano assolutamente gli Sweet, anche loro adorati dalle ragazzine, insieme ai vari Mark Bolan, T-Rex. Sicuramente gli Slade no, perché erano parecchio brutti. Erano abbastanza brutti, ma guarda, a vederli oggi, tutto sommato, erano tutti parecchio bruttarelli per i canoni di oggi, anche gli Sweet. Forse giusto Mark Bolan con questi riccioloni, gli occhi azzurri, certo. Sicuramente un bellissimo ragazzo. E anche questi il Sweet, Duca Bianco, non è che fosse proprio un sex symbol. Anche sì, assolutamente. Anche però sai, Paul, ogni epoca ha la sua tendenza. Assolutamente. Fox on the Run, naturalmente, erano gli Sweet. Same. you want, this is what you get. This is what you want, this is what you get. E siamo ora nell'ambito del Tour Date. Hello, kiddies. This is Alice Cooper on Mystery Tour Radio Show, and you better listen, or I'll bite your face off. Allora, è un periodo incredibile, stanno succedendo tante belle cose, e anche a livello musicale, oltre pensavo solo a livello musicale, sì, stanno succedendo tante belle cose. In fondo è vero che i Maxo stanno ottenendo i meritatissimi riconoscimenti, giusto. Che purtroppo qua in Italia, insomma, stentavano ad avere, che abbiamo sono venuti aiuto proprio dal cuore della sì, storia, sì, della musica rock. Dei nostri, cioè, gli States, quindi Alice Cooper, Lou Reed, insomma, gli anni d'oro, e il luogo d'oro, dorato. Meno male che ci sono realtà anche in Italia, appunto come la Frontiers Records, e anche come il nostro live club di Trezzo sull'Adda, che ci sta sparando, grazie anche a Eagle Booking, che salutiamo, il mitico Ciao Saverio Booking. Cioè veramente delle cose incredibili. Abbiamo per esempio al live club, nel giro di due giorni, 18 aprile gli Stranglers, 20 aprile i Killing Joke, avremo biglietti omaggio per gli ascoltatori. 18 aprile Stranglers, 20 aprile Killing Joke e 5 maggio, a cura di Eagle Booking e Metal Italia, avremo i Moonspell, i Lordi dalla Finlandia e tanti altri gruppi italiani, il metalitalia.com Festival. Quindi Moonspell, Lordi il 5 aprile e il 20 aprile, il 5 maggio, scusate, il 20 aprile Killing Joke e il 18 aprile Stranglers, in due settimane tre concerti da paura. Poi il 10 luglio avremo John Oliva, che presenterà All of the Mountain Kings dei Savatage, sempre a Live Club, sempre a cura di Eagle Booking. Abbiamo una serie di date incredibili qui per noi. Trasmettiamo da Brescia i Mayfair, stiamo fissando la data a Villa Nuova sul Clisi all'Aerosol. Quindi un grande ritorno MILF dopo di noi, cioè c'è sempre stato ma virtuale, un ritorno reale in carne ed ossa. Ci sono sto giro. Buonasera DJ Live. Live and direct. E quindi andiamo avanti con un po' di glam. Abbiamo parlato del Duca Bianco, qui abbiamo una canzone che lo riguarda. Sì, che ha scritto, ha interpretato una versione un po' più bruttina di quella che sentirete tra poco. Abbiamo anche una bella versione, bisogna dire, di Bruce Dickinson, è vero. Il suo primo album solista, Tattooed Millionaire. Loro erano appunto i Mott the Hoople, che appunto prodotti, esatto, dal Duca Bianco, e questa è ovviamente All the Young Dudes. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when your skin and clothes from moths and sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, sent with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my head? All the young dudes, hey, boots. vocali, queste note. Sì, certo, veramente una grandissima canzone. Allora, un gruppo più famoso, molto molto famoso, ovviamente Queen, diciamo fino a She Heart Attack, quindi fino loro, 75, ecco, esatto, ebbero una discreta, diciamo, influenza glam, sì, sì. Lo stesso Bowie, lo stesso Mercury era fan e amico di Bowie, ricordiamo, poi molti anni dopo, ovviamente, esatto, Mythic Under Pressure. E quindi andiamo a ascoltarci forse il loro episodio più glam in assoluto di tutta la loro discografia, ovviamente Killer Queen. She keeps Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommend another price, insatiable and appetite. Wanna try? A volte parlare di, sembra di, insomma, che parlare di banalità, déjà vu, sì, sembra, Queen, però cavolo, cioè. Cioè nel senso, potrebbe essere scontato, no, non è scontato. I Queen hanno fatto delle cose pazzesche, cioè, forse alcune delle canzoni più belle di tutti i tempi, sì, sai, sì, sì. Bohemian Rhapsody, quando d'altronde hai due geni come Freddy e Brian May, esatto, insomma. Assolutamente. Beh, non è così scontato, ecco, sono dei grandi geni. Chiudiamo chiudiamo con New York Dolls, ma possiamo in qualche modo ricollegarci anche qui. I Queen più rockettari, come appunto i New York Dolls, hanno sicuramente influenzato il glam air metal degli anni, esatto, 80, sicuramente. Due gruppi di riferimento furono sicuramente i Queen e i New York Dolls. I New York Dolls, non so, anche per forse sono più assimilati spesso al punk, alla nascita del punk, che non a quella, cioè il glam scene inteso come look. Però il sound dei New York Dolls è veramente qualcosa di potente. È bello qua, déjà vu, visto che chi ci ascolta praticamente la sente così tutte le settimane, la mitica trash dei, esatto, dei New York Dolls, di quell'immenso capolavoro che era appunto New York Dolls. E quindi arrivederci, a riascoltarci a domenica prossima, a risentorci, e questa ovviamente è Personality Crisis.